9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no, tu no. Ragazzi, ma qui di zoo comunale non ci sono più gabbie per metterli tutti. Dal capogruppo dell'IDV all'Italia dei Valori alla Regione Lazio, l'assessore nuovo della Lombardia. Ma come si fa? Cioè, ma vi rendete conto il crollo? Di nascosto l'effetto che fa, ma è un crollo totale. Poi dicono che io non devo gridare in galera. Ma la galera che io invoco non è quella penale, è la galera delle coscienze, in cui chi ha costruito questa roba deve auto rifugiarsi prima di esserci mandato a scopa. Si potrebbe andare tutti quanti ora che primavera. Vengo anch'io, no tu no. Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. Ma capite che va sempre a finire che piove anche su il governo Monti, che inizia a dire, poi dice, poi non dice, eccetera eccetera. Come vi ho già anticipato ieri, avete visto sul giornale di oggi, mica sbagliavo, il bilancio finale di questi 2 punti in meno delle 2 aliquote più basse di IRPEF e dei 2 punti in più per le aliquote invece generale, quella più bassa dell'IVA, è che in realtà è un aggravio fiscale. Ma pure da Monti e dai tecnici dobbiamo aspettarci che vada sempre a finire che piove, che ce la prendiamo nel fondo schiena. Ma perché? Perché? Un bel mondo sol con l'odio va senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io. Va bene, un bel mondo con solo l'odio e senza l'amore, e alla fine ci si finisce, vedete, quando poi le delusioni pubbliche della vita italiana sono così rilevanti, quando le cose si chiamano con altri nomi rispetto a quelle che dovrebbero avere, quando tutti giurano e spergiurano che hanno fatto giurare i propri assessori che erano puliti, poi scoppiano cose come Zambetti, che sono compravendita dell''Ndrangheta in Regione Lombardia, quando anche Tonio Di Pietro resta, da quello che raccontano i giornali o come fonte solo quella, sorpreso dal fatto che il capogruppo dell'Italia dei Valori, al quale pare tenesse come un figlio, sottraeva al partito 780 mila euro e così via. Cioè è una cosa che oramai accomuna in questa cronaca quotidiana sotto i colpi della magistratura, ma di fronte all'evidenza dei fatti più che di fronte alle ipotesi di reato, il crollo di ciò che resta di questo teatrino della Seconda Repubblica, e fa lasciare senza parola di fronte alla gravità dovunque di queste connessioni improprie, illeciti di massa, appropriazioni e spoliazioni. Di fronte a questo è ovvio che c'è un problema evidente che riguarda la responsabilità di tutti i capi di prima fila e di seconda fila delle articolazioni politiche della Seconda Repubblica, e al cuore il problema è quello di aver continuato a dire in questi anni che di fronte a una spesa pubblica che per più della metà è fatta di queste cose qua, non di welfare, i politici hanno continuato a dire che non bisognava toccarla perché si toccavano i servizi ai cittadini, vi hanno dato in pasto questa balla assoluta, che è la balla per difendere invece la possibilità di intermediare spesa pubblica, per farlo discrezionalmente, per farlo nell'opacità, per farlo senza renderne conto, con pezzi di pubblica amministrazione che la pensano come la politica, perché sono insieme alla politica artefici di un interesse pro tempore, minoritario nel volgere la cosa pubblica a questo. Che cosa di tutto questo poi sarà possibile fare con una protesta che a questo punto diventa dilagante di massa e giustificata, lo vedremo entro qualche mese. Per questo la domanda che poniamo oggi a voi ascoltatori, l'ho posta lanciando la trasmissione, la ribadisco adesso chiedendo di prenotarvi all'800 24 0024, è quella: ma in questa condizione nella quale gli scandali mietono vittime quotidiane a destra, a centro, a sinistra, nell'ambito di una riforma elettorale che non abbiamo ancora capito quale sia, tenteremo di chiedere oggi a qualche politico per aggiornarci, voi come cittadini vorreste, stante che tutti siamo per l'abolizione delle liste bloccate fatte col Parlamento, dei servi all'orecchio dei segretari del partito, ma in questa condizione vorreste davvero il ritorno alle preferenze? Sono un esercizio di libera scelta e di democrazia, oppure c'è da temere che le preferenze, visti gli inquinamenti di cui ci sono le prove quotidiane, anche col vecchio sistema, se torniamo ad applicare le preferenze, diventano un fomite, un trapite, un moltiplicatore di ulteriore corruzione e di ulteriore avvelenamento dei pozzi della vita democratica? Ecco, questo è l'interrogativo di fondo. Ora, iniziamo con i primi due ospiti a capire innanzitutto a che punto sta la roulotte del confronto tra forze politiche sulla riforma elettorale e a dirci come la pensano loro su il meccanismo preferenze sì, preferenze no. Abbiamo con noi Giuseppe Calderisi, che è deputato del PDL, che saluto e ringrazio. Buongiorno Calderisi. Ci sente Calderisi? Sì, ti sento, sì, ecco, mi sento. Perfetto. E Stefano Ceccanti, costituzionalista, senatore del PD. Buongiorno Ceccanti. Buongiorno. Ceccanti, intanto cominciamo un secondo da lei. Ci dice a che punto stanno le cose tra i contatti, da quello che ha capito e sa lei, tra i partiti sulla riforma elettorale? Dunque, questa mattina alle ore 10, forse con un pochino di ritardo, perché prima c'è l'aggiunta del regolamento alle 9:30 su altre materie e in diversi siamo impegnati in ambedue le sedi, si riunirà la Commissione Affari Costituzionali, credo a questo punto verso le 10:30. La Commissione ha di fronte a sé due testi, uno predisposto dal relatore PDL Malan che contempla le preferenze e dall'altra l'altro relatore Bianco che ha fatto un testo che invece comprende un certo numero di collegi nominali e delle liste bloccate corte. E questo è il punto più sensibile su cui si differenziano. A questo punto la Commissione voterà un testo come testo base, si danno due possibilità, il testo di Bianco non mi sembra che abbia possibilità di avere consensi perché è condiviso solo dal PD, il testo Malan è sulla soglia dei voti, noi siamo 26 in Commissione, occorrono 14 voti per fare maggioranza, diciamo, il testo Malan è sulla soglia perché verrebbe votato sia dal PDL, sia dall'UDC, sia dal movimento di Raffaele Lombardo. Quindi è probabile che questo sia il testo base e poi sulla base del testo di esso si comincerà a emendare. Potrebbe anche darsi il caso però che ci sia un blocco perché nessun testo sia approvato. Il modello prossimo ad avere il numero di voti, per così dire, è ispirato a tenere i collegi come sono oggi? E a cambiare come? Il meccanismo del premio? No, non è esattamente così, cioè per il Senato resta l'ambito regionale, invece per la circoscrizione si tratta di una restaurazione delle circoscrizioni pluriprovinciali della Prima Repubblica, quelle che erano cadute in seguito ai referendum popolari del 1991 e del 1993. Il sistema è del tutto assimilabile al sistema vigente in Grecia, perché insomma l'idea di un limitato premio nel nostro caso è il 12,5% alla coalizione, in Grecia è il 15% al partito, sommato con le preferenze. Quindi diciamo che è un sistema greco leggermente corretto. Ho capito. E di preferenze, il numero delle preferenze quale sarebbe? Il numero di preferenze sarebbe due preferenze massimo, con la formula di genere, per cui se si dà una seconda preferenza sarebbe data a un candidato di genere diverso, nel caso in cui l'elettore voti i candidati dello stesso genere sarebbe valida solo la prima. Proporzionale puro, tranne il premio del 12,5? Diciamo c'è qualche correttivo qua e là, ma la logica di fondo del sistema è di tipo proporzionale e bisogna chiarire, diciamo, in quello di Malan, che è quello che si vota, c'è un correttivo maggiore al Senato perché l'assegnazione dei seggi al Senato è nelle 20 circoscrizioni, che provoca un effetto, diciamo, di correzione della proporzionale, mentre invece è proporzionale vero e proprio alla Camera, dove i seggi vengono assegnati su base nazionale. poi esisterebbero gli sbarramenti, questi sbarramenti sarebbero, diciamo, ci sarebbe uno sbarramento standard al 5%, poi ci sono alcune deroghe, la principale nel caso di coalizione che abbia almeno il 15% dei voti, in quel caso le liste coalizzate scendono al 4%. Ho capito. Lei che opinione ha in materia di preferenze o meno e quali sono i difetti a suo giudizio del testo Malan che ci ha appena sintetizzato così? Ma guardi, io penso questo, noi dovremmo assumere due parametri. Il primo parametro è il rispetto della volontà referendaria che si è espressa nel 91-93 e che ha teso a scegliere lo strumento dei collegi uninominali e a abolire le preferenze. Qui invece c'è una restaurazione della logica delle preferenze, addirittura vengono restaurate le circoscrizioni della Prima Repubblica e vengono introdotte al Senato dove mai c'erano state. E poi dovremmo assumere la normalità dei sistemi europei, nei sistemi europei delle grandi democrazie, a meno che uno non voglia prendere come modello la Grecia, ma mi sembrerebbe sconsigliabile per vari motivi, esistono o i collegi uninominali per intero, come in Francia e in Inghilterra, o delle liste bloccate corte per intero come in Spagna, o un mix dei due come in Germania. Andarci a inventare un sistema invece spostandoci verso la Grecia non mi sembra una grande trovata. Quindi chiaro e netto il giudizio critico del senatore Ceccanti. Sentiamo invece Calderisi, cosa pensa innanzitutto se conferma che l'avanzamento del confronto ha portato alle proposte con le caratteristiche che ci ha illustrato il senatore Ceccanti e cosa pensa dei vantaggi e degli svantaggi di questo testo che sembra avanzare sia pure con il PD che ne ha un altro e terzo che cosa pensa delle preferenze. Prego Calderisi. Innanzitutto io ritengo che entrambi i testi in discussione siano profondamente inadeguati, perché il nostro Paese ha un sistema politico ormai in condizioni di crisi gravissima, con scarsissima legittimazione, con frammentazione anche molto forte e quindi in condizioni molto simili a quelli della Quarta Repubblica francese e avrebbe bisogno della stessa soluzione che fu data allora, quindi l'elezione diretta del Presidente della Repubblica col sistema uninominale a doppio turno. Questa sarebbe la soluzione per risolvere i problemi dell'Italia oggi. In alternativa, in subordine, potrebbe andar bene relativamente, diciamo, in una scala, in una gerarchia a secondo livello, un sistema come quello spagnolo, che favorisce la formazione di due grandi partiti, uno del centro-destra e uno di centro-sinistra, attorno a cui può ruotare, può funzionare un sistema parlamentare. Noi non abbiamo più grandi partiti, abbiamo più partiti medi, non abbiamo più le coalizioni che si sono sfasciate e se non teniamo conto di questa situazione non veniamo a capo del problema della legge elettorale. Quindi questo di cui si sta discutendo al Senato sono terze ipotesi che in partenza scontano una profonda inadeguatezza. Detto questo, per quanto riguarda lo specifico questione delle preferenze, personalmente sono contrario. Io non demonizzo nulla. Vent'anni fa le preferenze erano, ci fu una campagna che le demonizzò e furono abolite. E poi sono divenute di nuovo in auge e sono sembrate essere, diciamo, dal male sono divenute il bene della democrazia. Ecco, io credo che vada fatta una valutazione laica. Io sono contrario perché, al di là di quello che può apparire consentire all'elettore di scegliere il candidato, sottrarlo appunto alle nomine dei partiti eccetera, in realtà questo sistema ha delle profonde controindicazioni perché comporta spese delle campagne individuali elevatissime con tutti i fenomeni degenerativi che conosciamo. C'è un'indagine conoscitiva fatta dalla Commissione per le questioni regionali del 1988, allora presieduta da Augusto Barbera, che dice tutto quello che si sa, che chiunque vuole sa sul sistema delle preferenze, sui rischi di voto di scambio, clientelismo, corruzione, rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, oltre ai difetti che provoca sul sistema politico, perché provoca sistema di correnti organizzate e autonomamente finanziate e che vanno a minare la funzione unificante della leadership politica, che vanno a impedire la possibilità che il partito esprima una linea politica unitaria, cioè ci sono moltissime controindicazioni che a mio avviso sconsigliano. I casi di questi giorni ne sono una ulteriore testimonianza, di adottare questo metodo e di ricorrere invece a quello che viene utilizzato in tutta Europa, che sono o collegi nominali o liste molto brevi, molto corte, che consentono un ottimo rapporto fra gli elettori e i candidati. Allora Ceccanti, due domande per lei prima che ci lasci, perché so che ci deve lasciare per i lavori di commissione. Dai nostri ascoltatori, quella che raccoglie più consensi negli SMS è: ma com'è possibile un modello greco? Cioè tutti dicono ci tocchiamo da qualche parte, possibile che non fosse più evidente un sistema dei paesi che poi hanno un tipo di rappresentanza politica che consente migliore performance? Perché il modello greco, prima domanda. Secondo modello, ma l'alternativa alle preferenze da evitare, se sono da evitare, sono in maggioranza quelli che vogliono per il momento evitarle alla nostra messaggeria, perché deve essere quella dei listini bloccati? Così si passa dalla padella alla brace. Che risposte dà Ceccanti? Prima domanda, questa domanda va posta a coloro che si sono convinti di prendere il modello greco e non a me. Fra l'altro mi sembra un po' curioso che il PDL proponga oggi come testo base questo dopo essere partito dalla Francia, cioè siamo partiti dal sistema massimamente maggioritario che prevede due elezioni maggioritarie per il Parlamento e per il Presidente. Su questo secondo me in prospettiva resta questo il modello a cui tendere. Non andando lì si è scelta la strada completamente opposta di sprofondare nel modello greco della proporzionale con preferenze, è un segno di irrazionalità profonda del sistema. Secondo punto, secondo me la vera differenza sono i sistemi in cui i candidati si vedono e però c'è una logica di competizione tipo centripeto da quella in cui non si vedono, quindi tutti i sistemi che fanno andare i candidati nella campagna elettorale sulla scheda senza scatenare guerre fratricide vanno bene, quindi va anzitutto bene il collegio uninominale che è la cosa più semplice perché è uno contro uno su un bacino ristretto, però al limite in parte anche la scelta di liste di 3-4 nomi che vanno sulla scheda non è assolutamente comparabile a liste da 30-40 nomi in cui i singoli candidati spariscono, per cui la questione fondamentale è la trasparenza dei candidati che però eviti guerre fratricide. Grazie al senatore Ceccanti. Calderisi, come mai il PDL non è riuscito a venire a capo di una convergenza chiara, dell'indicazione chiara di un modello di riforma elettorale al proprio interno e quindi ha alternato tra posizioni che mi pare di capire esprimono innanzitutto anime diverse interno al PDL, ma poi riferimento anche a modelli completamente diversi. Lei ha espresso delle critiche nel suo intervento molto radicali, molto chiare, nei confronti del testo che il Senato sembra invece essere la bandiera su cui va avanti la convergenza PDL Lega o no? Bisogna ricordare che il PDL aveva imboccato la strada giusta con la riforma presidenziale sul modello francese anche per quanto riguarda la legge elettorale. Purtroppo e inspiegabilmente, veramente da parte del PD è stato detto un no. Ancora in teoria alla Camera stiamo discutendo di questa grande riforma, che sarebbe davvero una grande riforma per cui passare alla Terza Repubblica e non tornare forse non tanto la prima quanto la parodia della prima, ma purtroppo appunto i tempi stanno ormai scadendo e non c'è verso di convincere in particolare il PD di fare questa scelta che sarebbe l'unica a mio avviso adeguata, ripeto. Dopodiché si è ripiegati su un sistema che non è neppure quello spagnolo, perché anche qui c'è stato il PD che per i rapporti con l'UDC ha detto no a sistema di tipo spagnolo e siamo ricaduti in un sistema di tipo proporzionale con un semplice premio e con questa questione delle preferenze o di altri sistemi da adottare. E, ripeto, si tratta quindi di una riforma che riguarda soltanto l'applicazione una volta, me lo auguro, perché noi abbiamo bisogno comunque di una profonda riforma del nostro sistema istituzionale e quello che verrà fuori io non so cosa accadrà, certamente il sistema vigente va cambiato, con le lunghe liste bloccate non è assolutamente adeguato, però qui stiamo anche attenti perché non è che esistono comunque ricette miracolose, come sistema istituzionale. Bisogna tornare al problema dei partiti, perché se lo strumento, diceva anche Ceccanti, del collegio nominale e della lista corta bloccata, sono sistemi a mio avviso i migliori, ma anche questi possono essere usati in modo sbagliato, perché poi bisogna capire che uso fa il partito di questi sistemi. Se un sistema buono viene utilizzato male, se il partito viene meno alla sua funzione di selezionare la classe dirigente e non fa una scelta adeguata in questo senso, e qui non c'è sistema istituzionale che tenga. Allora, perfetto, questo è il problema. Bisogna andare a immettere delle regole, anche attuando l'articolo 49 della Costituzione, e imporre ai partiti di svolgere la loro missione, che non è quella di occupare lo Stato, che non è quella di ma quella di selezionare la classe dirigente. Allora, fatto stato di questa opinione di Calderisi, la mia opinione, io ho tre opinioni secche su questa materia. Primo, sono terrorizzato dal fatto che per il venir meno di ogni ipotesi di ciascuno di costruire coalizioni, perché è del tutto tramontata l'ipotesi per il PDL berlusconiano di farlo, il PD ha, come si vede, strade di fronte a sé, che però almeno affronta con delle primarie, con delle regole chiare, ma molto divergenti tra loro su che tipo di coalizione e chi la deve guidare. Questo significa il ritorno al fatto che il voto che darete, che daremo nel voto, non dirà, non consentirà a nessuno di esprimersi su una coalizione di governo e sul nome di chi la guida. Questo è un passo indietro, è inutile nascondercelo, perché attutisce ulteriormente l'unica possibilità che da sudditi abbiamo per poter indirizzare la vita pubblica. Quindi i partiti e il fiorire di partiti e partitini che ci saranno non potranno che considerare a quel punto di avere le mani libere e sciolte di fare qualunque cosa, fare e disfare, alleanze, leadership, correnti, pezzi di governo. Quindi da questo noi non possiamo che ricadere, seconda osservazione, in un copione che abbiamo già visto nella degenerazione della Prima Repubblica. Non credo affatto che la politica italiana oggi abbia dentro di sé personalità, leadership, priorità programmatiche per il paese superiori a quelle che c'erano nella Prima Repubblica. Anzi, è il peggio quello che è avvenuto. Quindi l'effetto sarà non solo mani libere, ma fenomeni di pericoloso trasformismo, convergenza, divergenza, fuori da ogni possibilità di indirizzo. Terza cosa, dice Calderisi, utilizziamola solo per una volta. Niente di ciò che è solo effimero dichiarato all'inizio diventa più permanente nella vita pubblica italiana. Quindi io credo che siamo alla vigilia di uno scasso che ci porterà dritti a rafforzare le richieste internazionali di condizionalità pesante sulla nostra economia. Un sistema che non è capace, di fronte al degrado morale in cui sta accadendo giorno dopo giorno, di assumere poche scelte chiare dicendo agli italiani dovete contare di più nel voto e non di meno, è un sistema che incoraggia partner e mercati a metterci il timbro di inaffidabilità e a chiederci deflazione ancora più dura di quella che facciamo. Spero di sbagliarmi, però questa è la mia attuale opinione. Abbiamo sentito Calderisi che ci ha detto sì, è vero, il PDL non ha le stesse idee, abbiamo cambiato idea, la colpa è del PD. Il PD dice la stessa cosa naturalmente degli altri. Torniamo con un'altra voce del PDL, con un altro indirizzo rispetto a quello che abbiamo sentito di Calderisi, a chiedere a lei cosa pensa di quello che ha capito dello stato attuale, del confronto tra le proposte diverse in tema di riforma elettorale, visto che Calderisi ci ha detto che alla Camera in realtà il discorso va avanti su un binario. Al Senato il senatore Ceccanti ci ha detto che proprio tra poco inizia l'esame in commissione e che il progetto più avanti è quello Malan, quindi di convergenza di centrodestra, nel quale il modello è quello greco, piccolo premio 12,5% a modeste coalizioni e per il resto proporzionale con preferenze e con il ritorno ai vecchi collegi, per così dire, Prima Repubblica, per intenderci, da quello che abbiamo capito. Allora, l'ospite di questa seconda parte della trasmissione è Giorgia Meloni, l'ex ministro della gioventù nel governo Berlusconi, deputata PDL. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, allora, cosa ha capito della riforma e come e perché invece tornare alle preferenze, secondo lei? Allora, quello che ho capito della riforma lo ha spiegato lei benissimo adesso in questo riassunto, quello che leggiamo bene o male quotidianamente. Ci sono diversi progetti di legge, c'è un iter che sta seguendo il Senato e un iter che sta seguendo la Camera. Quello del Senato è più avanti ed è sostanzialmente una proposta di legge diciamo sproporzionale, con un premio di, in questo caso credo alla fine di coalizione, perché questo è stato uno dei grandi diciamo elementi sui quali c'è stato dibattito tra diciamo il Popolo della Libertà e il Partito Democratico. Cioè inizialmente il Popolo della Libertà riteneva che il premio dovesse andare al partito e non alla coalizione, e il Partito Democratico invece sosteneva che dovesse andare alla coalizione. Adesso mi pare ci sia una convergenza sulla coalizione, e questo è un tema in realtà non secondario, perché la proposta del Popolo della Libertà è in questo caso una proposta che potrebbe tendere alla normalizzazione del sistema italiano. È ovvio che se tu dai il premio di maggioranza al partito tendi a un bipartitismo. Il problema è che rischia di essere calato in un sistema che non è ancora pronto per questo, perché poi storicamente l'Italia ha una particolare frammentazione nelle forze politiche, e in questo caso quindi il premio del 10, del 12, del 15, di quanto dovesse essere al partito, rischierebbe semplicemente di costruire un sistema parlamentare nel quale non c'è una maggioranza, e con tutto quello che ne può derivare. Però mi pare si stia convergendo sulla coalizione e io sarei d'accordo. Poi c'è l'altra grande questione, che è come eleggere i parlamentari, esatto. Diciamo la questione, se vogliamo, più dirimente. Io non ho fatto mistero, e tutti sanno che credo che tra i sistemi insomma che noi conosciamo, cioè le liste bloccate con le quali abbiamo il Parlamento attualmente eletto, i collegi uninominali o comunque insomma i collegi che avevamo con la legge precedente, e le preferenze, credo che le preferenze siano il sistema migliore. Credo che le preferenze siano il sistema migliore, benché non esista un sistema perfetto, per intenderci, cioè non c'è un sistema che ci mette al riparo da persone che possono eventualmente rivelarsi diverse da come sembravano nel momento in cui vengono candidate e nel momento in cui vengono votate. Però le preferenze sono il sistema che fa contare di più gli italiani. E poiché noi abbiamo avuto nel corso dei decenni una deriva oligarchica dei partiti, cioè i partiti, nonostante l'articolo 49 della Costituzione dicesse che devono essere gli strumenti attraverso i quali tutti i cittadini possono concorrere alla vita politica nazionale, poi nel nostro ordinamento sono delle associazioni private che hanno finito per ritenere di poter decidere tutto con quattro persone chiuse dentro una stanza, per cui anche i 1000 parlamentari che noi abbiamo attualmente sono stati nominati da massimo 10 persone in rappresentanza di tutto il popolo italiano, e abbiamo visto i risultati. Se invece lei prende in considerazione quello che accade sui territori, dove noi eleggiamo a preferenza consiglieri comunali, consiglieri regionali e anche i parlamentari europei, ci rendiamo conto che c'è, diciamo, una capacità degli italiani, soprattutto in questo tempo, di scegliere meglio. Rispondo già all'obiezione che mi si farà: Fiorito è stato eletto a preferenza, sì, ma Lusi è stato eletto con una lista bloccata, e la differenza è che Fiorito oggi non verrebbe mai rieletto a preferenza. Cioè il rischio che poi le persone si rivelino non all'altezza è un rischio che esiste, ma io non credo che quelli che hanno votato Fiorito, per intenderci, differentemente da quello che ho sentito dire a qualcuno, fossero tutti corrotti nelle 20.000 preferenze che sono arrivate a Fiorito. Quindi semplicemente quelle persone oggi non rieleggerebbero Franco Fiorito. Dopodiché, che la democrazia abbia dei limiti anche nella capacità di scelta, se mi consentite una battuta, lo sappiamo dai tempi del plebiscito tra Gesù e Barabba, ok, che può andare male, ma è la democrazia, e noi dobbiamo costruire un sistema nel quale gli italiani possano contare il più possibile, perché così, come abbiamo visto nelle ultime amministrative, alla fine in questo tempo, e poi chiudo, sanno scegliere meglio dei partiti. Ultimissima obiezione: si dice che le campagne elettorali a preferenza costino molto di più. Intanto si può ovviare semplicemente mettendo un tetto alla spesa dei candidati, primo. In secondo luogo, non in questo tempo, perché nelle ultime amministrative, se voi andate a guardare per esempio quello che è successo sui territori per l'elezione dei consigli comunali, scoprirete che nella maggior parte dei casi sono stati eletti dei giovani, sono state elette persone che non hanno messo in campo particolari risorse, che non erano, diciamo così, figlie d'arte, che non venivano da particolari gruppi di potere. Semplicemente in questo tempo gli italiani scelgono le persone. Siamo nell'era di internet e le campagne elettorali si possono fare, non dico a costo zero, ma a 2 lire. Vogliamo mettere le regole? Io sarei per esempio per vietare le cene elettorali pagate dal candidato, perché non le ho mai fatte, ok? Però questo è un altro tema, si possono immaginare delle regole. Fatto sta che se noi vogliamo recuperare la deriva oligarchica che ha avuto la politica in Italia, dobbiamo farlo con una parola d'ordine. Quella parola d'ordine è 100% democrazia, cioè decidono tutto gli italiani. Benissimo, una tesi chiara quella di Giorgia Meloni, è una tesi diversa da quella esposta, avete sentito, da Calderisi, che dice no, vedo un grande rischio in questo meccanismo. La Meloni propone delle risposte alle obiezioni di Calderisi sui tetti di spesa, sugli errori insiti in ogni sistema, ma dice, alla luce dei fatti e proprio in questa fase di declino evidente della Seconda Repubblica, i risultati delle preferenze laddove si usano rispetto alle parti di legislazione elettorale nazionale dove non si usano, dicono che il meno peggio è dove ci sono le preferenze. Eccoci qua, mentre riparte Jim Morrison su This is the End, vediamo un pochino come l'ha pensata su preferenze sì, preferenze no, e anche alla luce di quello che potete aver capito del dibattito su la riforma elettorale in corso. Cominciamo con Martino, Martino che ci chiama da Milano. Prego Martino. Buongiorno a tutti, buongiorno. Non è il fattore determinante quello delle preferenze, meglio senza comunque. Il fattore determinante è la coerenza con la Carta Costituzionale e la democrazia, perciò dico che è un'impostura dire proporzionale a un sistema con soglie di sbarramento e premi di maggioranza. La soluzione ideale è lontanissima da quella che ha in mente l'onorevole Meloni. Appunto è il proporzionale puro con un accorgimento, che si stabilisca che il Presidente del Consiglio, una volta indicato e nominato, possa essere rimosso con maggioranza qualificata dei 2/3 di una sola Camera o dei 3/5 di entrambe le Camere. In questo modo decade l'espediente per rubare i seggi assegnati dagli elettori tramite soglie di sbarramento e premi di maggioranza. L'essenzialità è consentire la partecipazione politica di tutti, dotare gli elettori di ampia e corretta informazione, libera candidatura a tutti e completa trasparenza. Posso prolungarmi, se lei crede, a specificare ogni dettaglio? L'unica obiezione che le pongo è l'esplosione del proporzionale puro, della miriade di partiti e partitini. Lei dice, tu beh, non fa niente, il Parlamento serve a quello, a dare rappresentanza, non a far convergere su indicazioni di governo. La governabilità è garantita con l'accorgimento che ho segnalato poco fa. Con la sfiducia costruttiva, però il problema è che i partiti a quel punto, mi perdoni, tanti partiti nella storia, quando erano pochi, nella Prima Repubblica già facevano così. La sfiducia costruttiva è un limite quando sono pochi i partiti. In Germania la sfiducia costruttiva ha funzionato perché c'era una clausola costituzionale per cui non c'era un partito comunista e non c'era un partito di estrema destra. I partiti, quando ha iniziato a moltiplicarsi, infatti, con i Verdi, anche in Germania, questa roba ha iniziato a zoppicare e hanno dovuto fare le grandi coalizioni. Martino, io rispetto l'idea che il Parlamento debba essere la fotografia del paese, sappiamo come va, però è perfetto. Uno mi dice, mi dispiace, il Parlamento deve essere la fotografia, ogni voto degli italiani potenzialmente può dare senza neanche le soglie, e in questo paese che ha un problema di governabilità e di credibilità internazionale è una scelta ed è del tutto legittima quella di Martino. Sentiamo Margherita dalla provincia di Milano, come la pensa Margherita? Sì, buona giornata a tutti. Come premesso, ammesso che ne abbiamo tanto bisogno di una buona giornata, no, contrarissima alle preferenze, contrarissima. Io ho 75 anni. Grazie, ho già dato, ho già visto durante tutti questi anni che cosa è successo. Purtroppo, dottor Giannino, qui siamo però alla soglia della disperazione veramente, perché non credo più in nessuno. Allora, quello che succederà a questi politici attuali, ci sarà un'astensione di massa alla prossima elezione, ci sarà una che girino un po', che scendano dall'Olimpo e che vadano un po' a sentire che cosa pensa la gente, al di là e a prescindere dalla posizione ideologica eventuale. Non ne possiamo più, per cui d'accordo, astensione di massa è un dramma se vogliamo, però dovrebbe spingere i signori politici attuali a togliersi di mezzo e a proporre due grandi schieramenti che possono diventare credibili. Sono capaci di farlo? Ho i miei dubbi purtroppo, ma mio marito diceva che ero un inguaribile ottimista, quindi cerco di recuperare un po' del mio ottimismo che non ho più. Non credo che questa astensione però deve avere un valore di referendum, con il quorum addirittura, al di là di una certa certa soglia di astensione non è possibile, chiaramente possibile, governare questo paese. Vediamo che cosa succederà. Cioè, lo sappiamo. Lei introdurrebbe un sistema per il quale, se l'astensione supera una certa cifra, il Parlamento eletto va automaticamente a casa, perché i partiti devono capire che l'offerta politica che hanno fatto, esatto, non è stata considerata complessivamente all'altezza minima. Per questa è una, sa che è una buona idea. Questa non mi dispiacerebbe neanche a me, questa, perché rafforzerebbe i poteri dal basso, per così dire. Perché altrimenti, se dobbiamo comunque ragionare che non esiste una soglia al di sotto della quale poter esprimere un no netto, perché bisogna dare un segnale a tutti i partiti che devono fare un altro pezzo di strada molto più avanti di quello che stanno facendo, del minimo sindacale che stanno facendo, e noi questo strumento non ce l'abbiamo. Quindi io ringrazio Margherita, perché la riflessione che ci ha dato su questo piccolo particolare, che i partiti in Parlamento non sceglieranno mai, come è evidente, l'ipotesi che il corpo elettorale possa prevalere su tutti loro complessivamente in caso di una certa soglia di astensione, però è molto interessante su come la pensano coloro che dicono rafforziamo i poteri dal basso. Io sono per un modello svizzero, figuratevi un po'. Gianni da Milano, come la pensa Gianni? Salve Giannino, io sono fondamentalmente d'accordo con lei, vorrei aggiungere alcune cose. Allora, contrariamente a chi mi ha preceduto, io sono assolutamente contrario alle astensioni. Il minore dei mali per una persona che segue la politica con una certa responsabilità lo si conosce, e quindi lo si va a esprimere al voto, che è l'unico modo per dire il proprio parere da parte di chi non conta nulla come noi elettori. È proprio un problema di responsabilità. Le preferenze le ho sempre osteggiate per un semplice motivo, ma non solo perché si infiltra, ma voglio dire, non è quello il problema. È che con la cultura politica che c'è nel paese, io vorrei fare un test attitudinale a chi vota per capire in base a che cosa vota e in base a che cosa esprime le sue preferenze. Cioè, io sono di una grande città, lo ha detto lei, a me arrivano, quando c'erano le preferenze, arrivavano tonnellate di buste, di inviti a votare, certo, per uno o per l'altro. Non aveva, ma chi condizioni, esatto, non aveva le condizioni per poter esprimere con scienza e coscienza una scelta davvero personale. Allora, io ringrazio tutti quanti, un record di sms che sono arrivati. L'appuntamento è domani, i più sono contrari alle preferenze. Questa è l'indicazione che oggi abbiamo raccolto. Sulla riforma elettorale, come avete capito, buio profondo. A domani.